L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, siamo in diretta, sono 8 minuti dopo le 12 con il nostro appuntamento settimanale dedicato alle storie, alle persone, alle opportunità, alle possibilità europee. Un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, la prima rete radiofonica europea, così cita il sito di Radio 24 nell'apposito spazio. Il modo migliore di capire l'Europa, perché? Perché ci sono tante lingue, tanti dossier, tanti approfondimenti. Mi invito come sempre ad andare sul nostro sito, da lì anche la possibilità di ascoltare online le dirette con l'apposito player. Insomma, siamo qua e poi ci sono gli account @ Federico Taddia oppure Euronet Plus R24 per seguirci anche in rete, le nostre piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relative agli argomenti che andremo a toccare. Oggi viaggeremo tantissimo, una puntata pasquale anche la nostra dell'altra Europa, e viaggeremo tanto verso l'est, verso il Mediterraneo, insomma davvero verso i confini dell'altra Europa. Partiamo quindi, iniziamo viaggiando coi Fenici. Destino di mare, questa canzone presa dall'album Rotta dei Fenici di un ensemble Selinus, gruppo folk siciliano coinvolto in questa storia che vi andiamo a presentare, la storia che parla di un itinerario culturale del Consiglio d'Europa, un itinerario che come sempre sono gli itinerari culturali, un itinerario fatto di contaminazione, questo viaggio, racconta un viaggio che tocca 15 paesi di 3 continenti, sfiorando oltre 80 città di origine fenicia. Di tutto ciò ne parliamo con Antonio Barone, che è il direttore dell'associazione Rotta dei Fenici. Buongiorno Antonio, benvenuto all'altra Europa. Buongiorno. Allora, una rotta, un tracciato, un viaggio nel tempo e nello spazio. Che cos'è oggi la Rotta dei Fenici? Beh, la Rotta dei Fenici nasce per il Consiglio d'Europa come dialogo come itinerario del dialogo interculturale nel Mediterraneo. Quindi attraverso questo itinerario, lungi dal voler essere semplicemente un itinerario archeologico, si vogliono raccontare queste vie del mare, attraverso cui i fenicio-punici e altre antiche civiltà trasferirono merci, conoscenze, culture, tutte alla base dell'odierna civilizzazione euro-mediterranea. Ma dal 2003, quando abbiamo preso in mano questa iniziativa, che è stata lanciata dal governo italiano nel 94, abbiamo cercato anche di utilizzare l'itinerario culturale come laboratorio en plein air, come strumento per valorizzare alcuni approcci metodologici europei, tra cui che sono il bottom up, cioè lo sviluppo dal basso, la pedagogia del patrimonio, concetti come il turismo responsabile, lento, etico, e cercare di tradurli in realtà a vantaggio delle comunità che lavorano lungo la Rotta dei Fenici. Quindi alla base della coerenza e la consapevolezza, la coerenza di quello che si sta facendo, evitare interventi che da un lato vanno verso il turismo, dall'altro vanno verso la distruzione del territorio, dall'altro la consapevolezza di un passato importante che può diventare strumento per il futuro. Sullo sfondo un Mediterraneo con tante difficoltà, non solo economiche ma, come sappiamo bene, anche geopolitiche. Infatti si parla di Siria, si parla di Libia, si parla di Tunisia, si parla di Marocco, di Spagna, di Portogallo, di Francia, di Cipro, di Grecia, di Malta, di Egitto, di Gran Bretagna. Questa è la Rotta dei Fenici. Ne parliamo oggi anche perché qualche giorno fa è stata firmata la Carta degli Etruschi in Italia, quindi un appuntamento che suggellava, se ho capito bene, l'ingresso all'interno della rotta di altre mete, di altre località. Sì, effettivamente la rotta dei Fenici non è un unico itinerario, perché toccando tutto il Mediterraneo sarebbe anche difficile proporlo tutti insieme, ma noi lavoriamo attraverso una confederazione internazionale che raggruppa delle reti che sono transnazionali o tematiche, come nel caso per esempio del turismo responsabile o di Agenda Locale 21. Tra questi l'ultimo arrivato è appunto la rete degli Etruschi, che è un popolo che ha avuto a che fare con i Fenici. Ricordo per tutti il sito di Pirgi sulla litorale laziale, in cui nello stesso tempo Etruschi e Fenici veneravano ognuno i propri dei, un esempio di sincretismo religioso che potrebbe essere considerato un modello in questo momento. Ecco, gli Etruschi è un tema molto importante, è un tema prettamente italiano, sì, e certo, abbraccia diverse regioni italiane, e c'era voglia di mettere insieme i sistemi museali di questi territori col sistema museale internazionale della Rotta dei Fenici. Mm-hmm. Questi itinerari culturali che secondo te che apporto possono dare come contributo proprio nel percorso dell'Europa unita, nel percorso dell'Europa che va al di là dei confini? Uno pensa all'Europa e guarda al futuro, voi invece guardate al passato. Beh, lo sguardo al passato è solo per prendere le informazioni e la coscienza di quello che è stato il Mediterraneo di una volta, il Mediterraneo in cui non c'erano passaporti, in cui non c'erano barriere, in cui chi abitava nell'attuale Maghreb o nel sud dell'Europa era a casa sua comunque. Ecco, all'interno della Rotta dei Fenici avviene proprio questo, che queste reti di persone, di comuni, di territori, di comunità che si mettono insieme, decidono insieme i propri progetti, i propri programmi, li portano avanti, si sentono cittadini di un Mediterraneo che non ha né divisioni né assolutamente ostacoli nello scambio. Certo, e in quest'ottica forse c'è anche questa intenzione che avete in progetto, questa Tunisia, questa firma della Carta della Pace dei Giovani del Mediterraneo. Di cosa si tratta? Ecco, è un progetto che prende spunto dalla realizzazione di una rete di scuole del Mediterraneo che è stata avviata in Sicilia e che sta raccogliendo sempre più scuole da tutto il Mediterraneo, cioè una piattaforma virtuale in cui le scuole, sia da un punto di vista dei docenti che degli studenti, possono incontrarsi, scambiare idee, attività pedagogiche e organizzare anche gemellaggi, visite, viaggi, eccetera. In questo contesto era previsto una carta della pace redatta dai ragazzi. Recentemente un gruppo di studenti francesi in visita in Sicilia hanno, con ragazzi siciliani, buttato giù alcuni temi su questa carta, e in ottobre volevamo realizzare questo evento a Zama, luogo della battaglia di Annibale, in cui si andava a suggellare questo messaggio di pace che parte dai giovani. Purtroppo i fatti recenti ci hanno reso molto più attuale questa firma. Già ad aprile io sarò in Tunisia per concordare con il governo tunisino gli estremi di questo evento. Assolutamente, tienici aggiornate, perché vogliamo esserci, vogliamo seguire questo bel progetto. Rottadeifenici.it è il sito per tutta l'informazione, oppure la pagina Facebook che si trova sotto il nome La Rotta dei Fenici, itinerario culturale del Consiglio d'Europa. Tutto ciò lo trovate anche sui nostri account Twitter e Facebook. Grazie davvero Antonio, buon viaggio insieme ai Fenici. Ciao. A presto. Un post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Euro Post-it. Il Medio Oriente contemporaneo a Firenze. Dall'8 al 13 aprile Firenze torna ad essere la capitale della cultura medio orientale contemporanea. Middle East Now è un festival internazionale di cinema, documentari, arti visive, fotografie, cultura contemporanea, cibo ed eventi sul Medio Oriente e Nord Africa. 6 giorni di proiezioni che propongono le opere più recenti di giovani registi provenienti da Iran, Iraq, Israele, Palestina, Qatar, Kurdistan, Afghanistan, Emirati Arabi, Libano, Giordania e Arabia Saudita. Il titolo è stato scelto per comunicare l'urgenza e la necessità di immediatezza nel raccontare e comprendere il Medio Oriente. Per scaricare il programma e conoscere tutti i dettagli, collegatevi al sito middleeastnow.it. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta L'Altra Europa. In my capacity of European Commissioner for Regional Policy, it's my pleasure to meet you all for the first time, and I think it's very important for me and for us together to work together for the next 5 years. La voce che state ascoltando è quella di Corina Cretu, la commissaria europea per le politiche regionali, parole che ha utilizzato nel presentare una nuova iniziativa, una piattaforma che così è stata un po' soprannominata l'Erasmus dei funzionari, una piattaforma nata per favorire lo scambio di buone pratiche e per quanto riguarda l'utilizzo e la gestione dei fondi relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo di Coesione. Parliamo di 24.000 funzionari europei che avranno la possibilità di condividere il loro lavoro. Perché è importante? Beh, lo chiediamo a Daniel Beremlinski, che ritroviamo dopo tante chiacchierate fatte con lui quando lavorava in Italia presso la rappresentanza in Italia della Commissione Europea ed ora è un funzionario della Direzione Generale Politica Regionale e Urbana della Commissione Europea. Ciao Daniel, ben ritrovato. Ciao Federico, sono veramente contento di essere con voi di nuovo. Sei a Bruxelles adesso. Sì, la piovosa Bruxelles. Beh, insomma, guarda, oggi è una piovosa Milano anche, quindi non così per consolarti. Allora, Angele, TAIEX Regio Peer to Peer, di cosa si tratta? Sì, il nome è un po' complicato, ma possiamo anche chiamarlo peer to peer. Letteralmente, che cosa significa? Pari a pari significa una piattaforma appunto online nella quale le amministrazioni coinvolte nella gestione dei fondi della politica regionale, stiamo parlando del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e fondi di coesione, possono scambiare tranquillamente e facilmente, soprattutto in tempo reale quasi, le loro competenze, le loro conoscenze, le informazioni necessarie e le buone pratiche nella gestione di questi fondi. Certo. Come avviene questo? Da una parte c'è un'amministrazione, appunto un funzionario di questi 24.000 a cui accennavi poco fa, che incontra dei problemi, delle difficoltà nella gestione appunto di ogni giorno, delle procedure di ogni giorno che riguardano questi fondi. Ricordiamo, qui è importante per i nostri ascoltatori sottolineare che la gestione di questi fondi è condivisa da una parte la Commissione Europea, ma soprattutto le autorità, le amministrazioni nazionali, regionali e locali. Angel, appunto tu hai lavorato per anni nella comunicazione e in Italia, quindi sai anche quelle che sono le difficoltà reali nel far passare certe informazioni, certi messaggi. E ricordiamo che cosa si intende per politica regionale. La politica regionale è la politica, diciamo, per eccellenza di investimento nelle regioni dell'Unione Europea. Un investimento che per i prossimi 7 anni, stiamo parlando di questo nuovo periodo di programmazione che va di 7 anni in 7 anni, 2014-2020 è quello attuale, stiamo parlando di un investimento complessivo di 150 miliardi di euro, comprensivo anche del Fondo Sociale Europeo. Che cosa significa questo? Che ogni paese, sulla base delle proprie regioni, sulla base soprattutto dello sviluppo, del livello di sviluppo delle proprie regioni, ha un certo ammontare da gestire che viene all'inizio di ogni periodo diciamo assegnato. E sulla base di questo ammontare ovviamente vengono preparati, viene preparato un quadro complessivo che determina quali sono gli obiettivi, quali sono le modalità, sulla base anche dei regolamenti che vengono approvati a livello europeo, comincia ad attuare progetti che beneficiano di questi soldi. Questo avviene appunto in una gestione condivisa, significa che all'inizio i regolamenti, quindi il quadro legislativo, viene approvato a livello europeo, dopodiché ogni paese determina, questo è stato il primo caso di questa programmazione del 2014-2020, in cui tutti i fondi di cosiddetti strutturali di investimento, quindi dai fondi regionali di cui abbiamo parlato fino a fondi agricoli e per la pesca, vengono inseriti nel cosiddetto accordo di partenariato, ovvero il Paese sottoscrive con le istituzioni europee, con la Commissione europea, un accordo per i 7 anni in cui determina quali sono, qual è il punto di partenza soprattutto, qual è la situazione in cui si trova, certo, quali sono le principali difficoltà delle sue regioni e del contesto, diciamo, economico-sociale, quali sono le modalità con cui vuole affrontarle e come appunto per affrontarle utilizzerà questi. Insomma, un ambito importante in questi giorni, tra l'altro stiamo leggendo molto sui giornali perché si sta cercando il nuovo ministro italiano per gli affari regionali che probabilmente avrà anche una delega riguardante proprio la gestione di questi fondi, quindi questo è l'ambito di cui stiamo parlando. E con peer-to-peer si vuole proprio dare una mano ai funzionari che di fatto portano avanti anche la macchina burocratica, non solo una piattaforma online, ma sarà anche l'occasione con esperti che andranno in missione, visite di studio, laboratori e workshop, proprio per capire concretamente come gestire e come operare in questo settore. E, vuoi dare un indirizzo, un sito internet per avere qualche informazione? Angel? Sì, certamente, bisogna semplicemente andare sul sito della Direzione Generale Politica Regionale Urbana, che è Inforeggio, per non stare a scrivere tutto il URL, sì. Si può semplicemente ricercare sul motore di ricerca che si utilizza Inforeggio appunto, ci potete trovare anche specificamente per quanto riguarda questa piattaforma anche sui social media usando l'hashtag Reggio P2P, perfetto, P2P, e effettivamente hai iniziato tu con il paragone che ovviamente può sembrare un po' azzardato, ma sicuramente calzante. Si tratta effettivamente di una specie di Erasmus dei funzionari, ma soprattutto si tratta di uno dei principi sacrosanti del valore aggiunto di stare insieme nell'Unione Europea, appunto, quello di affrontare i problemi comuni appunto attraverso questa piattaforma, ricercare e applicare soluzioni comuni e soprattutto trarne benefici comuni, perché da una capacità delle amministrazioni migliore nella gestione dei fondi appunto attraverso questo aiuto, attraverso questo scambio, poi alla fine i risultati e i benefici per i cittadini e per le imprese sono migliori. Assolutamente. Grazie ad Angel Bernelischi. Ciao Angel, alla prossima. Buon lavoro, buona Grazie Pasqua. Grazie a voi, buona Pasqua a tutti. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. Tirocini al Parlamento Europeo per persone con disabilità. L'Europarlamento offre opportunità di stage retribuiti a persone con disabilità, volte a favorire l'integrazione sul luogo di lavoro presso le sedi di Bruxelles e Lussemburgo. Lo scopo del programma è quello di offrire un'esperienza lavorativa di 5 mesi e l'occasione di familiarizzare con le attività del Parlamento europeo. Per partecipare è necessario essere maggiorenni, avere una profonda conoscenza di una delle lingue ufficiali dell'Unione ed essere in grado di certificare la propria disabilità. La scadenza per potersi candidare è il 15 maggio. Per saperne di più, collegatevi al sito europarl.europa.eu nella sezione Al vostro servizio, lavorare al Parlamento e selezionate la voce Tirocini. Luoghi non luoghi vissuti e caduti nel limbo dei ricordi, scatti autoscatti in dissolvenza degli angoli più nascosti, ci vuole occhio per misurarti, ci vuole naso per inseguirti, ci vuole orecchio per conquistarti, ci vuole bocca per stupirti. Chiatte che passano gravide di turisti dal tempo lieve, giorni che corrono ruvidi in questa torre di Babele. Luoghi e non luoghi reali e virtuali dove non viene nessuno, scatti autoscatti in un deserto di folla in cerca di qualcuno. Ci vuole fegato per provarci, ci vuole stomaco per consumarti, ci vuole fiato per arrivarci, ci vuole cuore per amarti. luoghi non luoghi tra l'Europa e l'altra Europa, luoghi non luoghi, una canzone, luoghi non luoghi, un album di un cantautore che abbiamo già conosciuto qui all'altra Europa, abbiamo avuto il piacere di ospitarlo più volte, si chiama Paolo Bergamaschi, ma l'essere cantautore è un hobby perché lui di professione fa tutt'altro ed è consigliere del Parlamento Europeo per gli affari esteri. Abbiamo il piacere di avere qua con noi Paolo Bergamaschi. Ciao Paolo. Ciao Federico, buongiorno a tutti i radioascoltatori e auguri. Auguri, buona Pasqua. È sempre un piacere ascoltare la tua idea di Europa in musica, perché insomma c'è una parte burocratica, c'è una parte politica, c'è una parte professionale e poi c'è una parte anche poetica di questa Europa che tu frequenti da anni e che riesci a narrare in musica, quindi come sempre complimenti Paolo. Grazie. E non ti abbiamo riconvocato qui all'altra Europa solo per la musica, ma anche per parlare di altre Europe. L'abbiamo fatto prendendo spunto da un bel reportage, da un bello scritto che si intitola Crisi Ucraina tra Varsavia e Sarajevo, che hai pubblicato su www.balcanicaucaso.org, l'osservatorio Balcani e Caucaso di cui parleremo fra pochissimo. Come mai l'esigenza di scrivere questo lungo testo, perché è un lungo viaggio quello che tu hai fatto, una lunga fotografia più che un lungo viaggio sull'Ucraina oggi? Ma io ho voluto mettere a fuoco gli ultimi sviluppi della crisi ucraina. Io mi sono recato nell'ultimo anno, penso di essere in Italia forse uno dei pochissimi che ha vissuto fin dai primi momenti la rivoluzione del Maidan, quella scoppiata alla fine del novembre del 2013, che poi ha portato al rovesciamento del regime di Yanukovych, fino alla crisi della Crimea, fino agli ultimi sviluppi, la guerra nel Donbass e l'ultimo accordo di Minsk, il cosiddetto Minsk 2. Ho voluto fare un po' il punto della situazione, visto che io ho avuto la fortuna in tutti questi anni di viaggiare in questi lembi dimenticati del continente, in queste repubbliche o pseudo-repubbliche di cui nessuno conosce esattamente cosa siano, tipo l'Ossetia del Sud, la Casia, la Transnistria, il Nagorno-Karabakh. Ecco, io sono luoghi che ho visitato in lungo e in largo dappertutto, e alla luce di quello che si è verificato in queste zone, che sono appunto dei limbi dal punto di vista diplomatico, dal punto di vista statuale, sono entità inesistenti sulla cartina che però esistono da parecchi anni, alla certo. luce di quello che si è verificato in questi luoghi, ho fatto le mie riflessioni su come potrebbe evolversi la crisi del Donbass, ed è nato appunto questo reportage che non vi leggeremo, però Paolo, adesso ci fermiamo un attimo, la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te per non ti chiederò neanche una sintesi, ti chiederò magari qualche immagine per capire che cos'è l'Ucraina oggi. L'altra Europa. Cambieremo i confini del mondo tra Jenin e Ramal, con i sassi delle pietraie e il sorriso sulle labbra. Tracceremo le linee seguendo le correnti d'aria, tra gli arbusti di tamerici e il profumo di lavanda. La parola divenuta ossessione di un testamento antico e una terra ritrovata dopo un lungo esilio. I mattoni messi in uso. Ancora l'altra Europa, siamo sempre in diretta per raccontarvi l'Europa delle storie, delle persone, delle possibilità e delle opportunità, e siamo ancora con Luoghi non luoghi, l'album di Paolo Bergamaschi. Quella che state ascoltando è Luisa di Guerra in Guerra, la voce è di Anna Maria Castelli. Resta indifferente a tutto ciò che accade in terra, ai posti di blocco i soldati controllano che tutto sia in ordine, del lascia passare il velo sulla fronte. Quante dogane, quante confini, quante volte il suo passaporto l'ha dovuto far vedere a dei soldati, perché zone di guerra ne ha visitate tante, tantissime. Paolo Bergamaschi, nella sua professione di consigliere del Parlamento europeo per quanto riguarda la politica estera, Osservatori Balcani e Caucaso, ospita questo bel reportage, questa bella e lunga riflessione di Paolo sulla crisi ucraina. Paolo, ti ho chiesto qualche immagine per capire che cosa sia l'Ucraina oggi. Da dove possiamo partire? Ma l'Ucraina di oggi è un paese completamente nuovo, diverso, però è un paese in transizione, è un cantiere aperto, sull'orlo di una crisi finanziaria incredibile, perché è sull'orlo della bancarotta l'Ucraina. Vorrei ricordare che solo quest'anno il 7% in meno del prodotto interno lordo, il 20% dell'economia disastrata, perché le zone orientali sono appunto afflitte da un conflitto che è solo apparentemente congelato, una tregua molto fragile, e le prospettive sono appunto un punto interrogativo. C'è molto bisogno d'Europa, c'è molto bisogno del nostro sostegno, e però questo deve arrivare. C'è molto bisogno d'Europa, ma c'è anche molta voglia di Europa? C'è anche molta voglia d'Europa. Infatti vorrei ricordare che mentre gli studenti scendevano in piazza un anno fa per invocare la scelta europea, per sostenere la scelta europea, per portare appunto l'Ucraina verso l'Europa, da noi c'erano manifestazioni contrarie di gente che scendeva in piazza per uscire dall'Europa. Quindi era proprio una cosa paradossale come ad est si verificassero queste spinte filoeuropee, mentre invece all'interno dell'Unione Europea ci fossero queste spinte euroscettiche, eurocritiche, che mettevano in serie discussione il progetto europeo, e che ancora lo stanno mettendo peraltro in discussione il progetto europeo. Sono immagini in conflitto l'un con l'altro, però che la dice lunga su quello che è un sogno europeo che da parte nostra va rivitalizzato, mentre invece in Ucraina è molto vivo, ci si aspetta molto dall'Europa e ne dobbiamo dire. Paolo, tu quanti parlamenti europei hai attraversato? Io penso di aver visitato, guarda, io ho fotografie di quasi tutti i parlamenti, tra l'altro fisicamente entrando nel Parlamento. Per esempio 10 giorni fa ero all'interno del Parlamento armeno, perché c'è stata la riunione dell'Assemblea parlamentare Euronest, appunto, che mette assieme il Parlamento europeo con i 6 paesi che appartengono al partenariato europeo, fra cui l'Armenia, appunto. C'era la riunione 10 giorni fa, per cui li conosco benissimo, mi sento a casa mia quando visito tutti questi parlamenti in giro per loro. Peraltro penso di essere, non so quanti, mi sarà incuriosito di sapere quanti sono gli europei che hanno visitato tutte le capitali del continente. Io l'ho fatto, proprio ho questo piccolo record, penso di avere, me ne vanto, anche perché mi piace moltissimo girare in tutti gli angoli del continente. Magnifico. E invece il nuovo Parlamento europeo ha cambiato lo sguardo verso l'aldilà dei confini dell'Unione. C'è una nuova politica europea che vedi nascere, che vedi sorgere, che vedi evolvere? Io, frequentando quotidianamente, essendo il senior advisor all'interno della Commissione Estera del Parlamento Europeo, cioè il consigliere più anziano, mi rendo conto di questa rinnovata attenzione nei confronti del paese del vicinato, cioè sia il vicinato meridionale, quindi i paesi del Mediterraneo, che è il vicinato orientale, cioè le 6 ex repubbliche dell'Unione Sovietica, che oggi fanno da cuscinetto fra l'Europa e la Federazione Russa. E certo, c'è molta attenzione, c'è moltissima attenzione, però il problema è che al di là dell'attenzione non si va, perché al di là l'attenzione, le politiche, per essere ambiziose, per essere credibili, devono essere anche supportate dai mezzi adeguati, e purtroppo non ci sono i mezzi adeguati, perché il bilancio europeo è quello che è, limitatissimo, viene continuamente decurtato, tagliato, per cui in realtà le capacità d'azione, gli sforzi d'azione dell'Unione Europea vengono continuamente vanificati dal fatto che non esistono risorse. Certo, nessuno ha la sfera magica, tu però probabilmente hai la possibilità, l'esperienza di vedere cose che noi vedremo tra qualche mese, sei comunque in prima linea. Ci aspettano delle sorprese? Quali sono le zone calde o le zone dove non stiamo veramente valutando con attenzione quello che potrebbe succedere? Beh, dal punto di vista adesso, allora, intendiamoci, la politica estera europea non è che abbia avuto grossi successi, ne ha avuti un paio che io ricordi, però ne ha avuto uno ieri l'altro che è stato un successo evidente, che è un successo della diplomazia europea, che è l'accordo quadro con l'Iran. Mm-hmm. Quello è stato un successo della diplomazia europea, perché la diplomazia europea ci ha creduto fin dall'inizio ed ha agito come facilitatore del dialogo, come ha promosso appunto gli incontri fra i cinque paesi europei, gli Stati Uniti e l'Iran, ed è arrivato questo accordo che secondo me, se portato avanti, se messo in atto fino in fondo, è un accordo che è destinato a modificare gli equilibri, mm-hmm, equilibri di buona parte del pianeta, ecco, per cui da questo punto di vista l'Unione Europea ha svolto un ruolo fondamentale, quindi viva la diplomazia europea quando questa funziona. Certo. Però insomma ce ne sono stati altri, ricordiamoci 2 anni fa l'accordo che ha normalizzato le relazioni fra Pristina e Belgrado, quindi fra la Serbia e il Kosovo, ecco, anche questo è una delle medaglie che si può mettere sul petto l'Unione Europea, sono pochissime, ecco, però ci sono state, ricordiamoci, facciamo tesoro di queste, ecco. Assolutamente. C'è uno spazio per l'Unione Europea. Paolo, prima di salutarci, raccontare altre Europa è fondamentale da sempre, da anni lo fa l'Osservatorio Balcani e Caucaso, dove, certo, appunto, col quale tu collabori. Certo, e mi fa piacere che tu sottolinei questa situazione, perché l'Osservatorio Balcani e Caucaso è uno dei punti di forza dell'attenzione, della qualità del mondo accademico, della società civile che viene rivolto nei confronti delle questioni europee, le questioni di argomenti che riguardano la cittadinanza europea in senso lato e appunto dei paesi vicini nei confronti dell'Unione Europea. L'Osservatorio Balcani Caucaso, che è una ONG, è un progetto che è stato sostenuto per anni dalla provincia di Trento, che è diventato un punto d'eccellenza dell'Italia soprattutto, che oggi è in grosse difficoltà finanziarie perché la provincia di Trento ha deciso di ridurre il sostegno, mettendo in difficoltà tutti i ragazzi, tutte le persone che ci lavorano dentro, e quindi tutto questo reticolo di persone, di giornalisti, di mondo della società civile, sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea, che hanno lavorato su questo sforzo comune di costruzione europea. Uh-huh. È nato questo appello a sostegno dell'Osservatorio, invito i radioascoltatori ad andare sul sito dell'Osservatorio Balcani Caucaso, perché è un sito interessantissimo, peraltro, cioè sia in italiano che in inglese, capire un attimo quelle che sono i progetti in corso dell'Osservatorio Balcani Caucaso, firmare l'appello che è già stato sottoscritto da quasi 4.000 persone, peraltro 100 rappresentanti di organizzazioni del mondo accademico universitario, quindi vuol dire anche una rappresentanza qualificata a sostegno del lavoro dell'Osservatorio, per appunto per dare modo che l'Osservatorio vada avanti e continui a portare avanti i suoi sforzi, i suoi progetti fino in fondo. Certo, guarda, noi appoggiamo in pieno questo appello, capiamo che insomma la situazione non la conosciamo nel dettaglio, però 15 anni di storia bella, 15 anni di storia che a noi ha dato tanto come altra Europa, perché abbiamo trovato tanti spunti, tante notizie, tante voci e tanta passione per raccontare l'altra Europa, quindi diamo il nostro sostegno assoluto perché questa storia possa continuare. www.balcanicaucaso.org per conoscere quello che fanno, per conoscere chi sono e per firmare questo importante appello. Grazie Paolo, come sempre, buona musica. Ma sarai in tournée anche con la tua, con il tuo luogo in luoghi? Qualcosa, sì, qualcosa qui si fa, qua e là. Poi se le biblioteche o altri mi chiamano, molto volentieri si vado a parlare d'Europa, dei miei viaggi, a presentare i miei libri con la chitarra, spiego un po' tutto con i miei musicisti se c'è un po' più spazio, quindi ben volentieri si fanno le serate. Vanno. Perfetto, grazie davvero, ciao Paolo, buon lavoro, buon sabato. Ciao. Grazie a te Federico, grazie a tutti i radioascoltatori, buona Pasqua. Perfetto, radio24.it è il nostro sito, sto prendendo tempo perché stiamo giocando con i tasti, perché credo ci sia una festa di Pasqua dei nostri computer, vero, che si sono impallati completamente, e quindi diamo il benvenuto a Giorgio Borgonovo che è qua con noi, adesso vi racconto anche chi è. Ciao Giorgio. Ciao a tutti, ciao. Ciao, da dove ti abbiamo trovato? Dove sei? Mi avete trovato a Istanbul. A Istanbul. Fuori dalla Moschea Blu. Perfetto. Allora, chi è Giorgio Borgonovo? Voi in tanti mi chiedono, ma come trovi le tue storie? Le mie storie le trovo navigando in rete, dove non faccio altro che carpire chi ha idee, chi ha avventure in corso. E per caso sono terminato in un sito che non conoscevo, che si chiama ornitorinco.com, ed è un sito di storie, un sito di viaggi, un sito di animali strani, così si definiscono, storie di esperienze in giro per il mondo. E lì ho letto questa storia dove Giorgio si presentava e dice: sono sulle orme di mio nonno, ripercorro il suo viaggio 100 anni dopo. Giorgio, stai lì, diamo il traffico, poi torniamo immediatamente da te. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta L'altra Europa. Viaggiatore, questo pezzo di Elisabeth Russo, e, insomma, può essere la colonna sonora della storia di Giorgio Borgonovo. Sulle orme di mio nonno ripercorro il suo viaggio 100 anni dopo, storia che potete leggere e vivere, potevate leggere e vivere in presa diretta, adesso si sta concludendo, ma c'è un ottimo diario di viaggio sul sito www.storycity.it. Giorgio, come abbiamo sentito, è qua con noi. Giorgio, che storia è? Cosa ha combinato tuo nonno? Perché hai voluto ripercorrere la sua avventura? Allora, mio nonno è partito nel 1913 perché era innamorato di una ragazza, sì, e non aveva un lavoro, non aveva soldi. Quindi quando ha chiesto, lui tornava dalla guerra in Libia, e quando ha chiesto di sposarla i genitori gli hanno detto non hai soldi, che futuro dai a nostra figlia. Allora lui voleva fare il giornalista, ha chiesto un po' di giornali, il Corriere della Sera e altro, e che però gli hanno detto non hai mai scritto niente, non sai nessuno, vai, c'è la guerra nei Balcani, portaci qualche pezzo e poi magari ne parliamo. Allora lui è partito e in ogni comune in cui è passato si è fatto certificare il passaggio da Mantova, è partito da Mantova fino qui a Costantinopoli, a Istanbul. Sì. E allora io ho ritrovato questo suo diario, poi altre infatti, lettere. Storia che tu hai ricostruito come? Io appunto ho trovato intanto questo diario e poi le lettere che lui scriveva a casa, dei racconti che lui ha scritto, che con data e luogo in cui li ha scritti, delle poesie, e così mettendoli tutti su una carta ho trovato un percorso. E quando l'ho raccontato ai miei familiari e amici, 2 anni fa, proprio 100 anni di distanza dalla sua partenza, mi hanno detto devi farne un libro. Mm-hmm. Io non sono uno scrittore, non avevo l'ispirazione, allora ho detto senti, vediamo, rifaccio lo stesso viaggio, vediamo se ne salta fuori qualcosa di buono, e così mi sono messo in cammino. Mm-hmm. Lui viaggiava come e tu hai viaggiato come? Lui viaggiava mediamente con mezzi di fortuna, spesso a piedi, qualche volta, qualche tratto l'ha fatto in treno, però prevalentemente a piedi. E io invece ci ho impiegato da Mantova fino a Istanbul 8-9 mesi. Sì. Io ho rifatto lo stesso viaggio in macchina invece, se andate sul sito potete trovare le foto della nostra eroica macchina, e ci ho impiegato 15-18 giorni per arrivare fino a... Ecco, e intanto cos'hai trovato di simile a quello che aveva trovato tuo nonno 100 anni fa? E invece che Europa hai visto, hai incontrato, hai assaggiato in questo percorso? Allora, ero già innamorato dell'Europa e dopo questo viaggio credo di esserlo ancora di più. È un'Europa meravigliosa, con gente fantastica sia nelle città sia nei paesini. Ecco, mi sono trovato in difficoltà con la lingua, ad esempio in Ungheria, in Serbia, e questo mi ha fatto ripensare al viaggio di mio nonno, le difficoltà che deve aver avuto lui Mm-hmm, certo. Non conoscendo, tra l'altro, l'inglese è conosciuto abbastanza nelle città, ma nei paesini quasi nessuno lo parla, soprattutto in Serbia, alla periferia dell'Ungheria. Mm-hmm. E però la gente che all'inizio ti guarda un po' lo straniero, rapidamente, mi è capitato soprattutto con un cameriere in Ungheria, che è stato meraviglioso, è arrivato, era proprio duro. E poi invece mi ha mangiato lui due o tre volte, nel giro di poco si è allargato in sorriso e è diventato estremamente accogliente. Questo mi è piaciuto moltissimo. Mm-hmm. E così dappertutto ci siamo fermati in tanti posti a parlare con la gente, tutti ci hanno trattato, eravamo io e Fabrizio Annibali, un fotografo, ci hanno trattato come vicini di casa, ecco. Questo è stato molto bello. Ecco, e hai fatto qualche parallelismo al di là della lingua tra quello che tu hai visto e quello che aveva visto tuo nonno? Ti sei trovato nello stesso posto, nello stesso luogo? Hai avuto situazioni simili? Hai cercato tracce di tuo nonno in un qualche modo? Nel senso, cercando ovviamente, ripeto, assonanze tra i suoi scritti e quello che tu stavi vivendo? Allora, sì, li ho cercati. Li ho trovati intanto nel sentirsi lontano da casa, anche se lui c'è stato dei mesi e io anzi degli anni e io solo pochi giorni, ma la mancanza di comunicazione la senti. Sì. Adesso noi abbiamo telefono, internet eccetera, ma quando ti manca, ci è capitato di non avere possibilità di collegarci, magari in qualche stradina di montagna sperduti in Serbia, ti preoccupi. Allora lì capisco che cosa può aver provato lui passando, camminando in questi posti senza nessuno. Ti devi arrangiare, devi sapere che hai le tue gambe e solo su quelle puoi contare. Come luoghi, credo che il posto più in cui l'ho potuto percepire di più è proprio qua a Istanbul, perché ha riportato indietro alcune cartoline e quindi ho proprio la prova tangibile della differenza tra allora e oggi. Certo. L'ultima sua tappa, ad esempio, è a Tuzla, qui vicino a Costantinovo, vicino a 40-50 chilometri, che lui era in una casetta sperduta nel nulla, in riva al mare, e oggi è una località turistica, un forte sviluppo nel campo dell'industria navale. Com'è finita la storia di tuo nonno poi? Lo ha fatto il giornalista? Si è sposato con quella ragazza? No, è andata completamente diversamente. Lui è arrivato da Costantinopoli, poi è andato fino a Baghdad. Sì. E io questa parte del viaggio purtroppo non posso farla. Quando è tornato per la prima guerra mondiale, e quando è tornato ancora la ragazza l'hanno sposata, perché credo che sia proprio il modo giusto di dire, ha un maturissimo ufficiale, come scrive lui. Quindi lui poi ha ricominciato a viaggiare, ha viaggiato fino all'inizio degli anni, alla fine degli anni 20, e poi ha conosciuto mia nonna e poi certo. È stata mia madre. E via, dopo tutto la storia ha preso un'altra direzione. Sì, ha aperto l'azienda che ancora adesso gestisce mio fratello. Ok. Grazie davvero, Giorgio Borgonovo. Ricordiamo il sito ancora una volta per poter rivivere tutto questo viaggio che si sta concludendo proprio in queste ore, che è storycity.it. Ciao Giorgio, grazie ancora, buona Pasqua. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao. Ciao. E questo grazie va a tutti voi, come sempre, per essere stati in nostra compagnia. Va alla squadra Gianmarco Ferronato, che oggi ha litigato con i tasti in regia, Claudia Schiattone in assistenza e Miriam Lucchetti, che come ha scritto la puntata insieme a Silvia Righini. E l'altra Europa @ radio24.it se volete scriverci, se volete contattare la nostra redazione, oppure lo sapete, mi trovate sui vari social. L'appuntamento con me domani, giorno di Pasqua, come sempre verso le 10:45 all'interno di Si può fare, con Non me lo posso permettere, la vetrina del crowdfunding. Invece l'altra Europa, lo sapete, saremo qua come sempre in diretta sabato prossimo alle 12. Ancora ciao da Federico Taddia, buona Pasqua. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.